No, mi fa molto piacere essere in radio dai vostri microfoni e raggiungere, diciamo, la città di Bologna, dove torno dopo qualche mese, appunto sempre nello stesso teatro, che è il Teatro Deon. Esatto, appunto giovedì 14 dicembre tornerai sul palco del Deon con questo spettacolo. Che cosa racconta innanzitutto la storia? Allora, non posso svelare proprio la trama diretta perché fa parte un po' anche dell'emozione dello spettacolo scoprire come se io raccontassi a ritroso la vicenda. Sono una psicoterapeuta che ha in cura una donna che è una madre che ha compiuto un gesto nei confronti della figlia che scatena una serie di reazioni e io, diciamo, mi trovo con forse per la prima volta di fronte a un caso così difficile che chiaramente è un monologo surreale, cioè che parla di cose molto attuali, molto presenti, eccetera, ma proprio per raccontarle a teatro le spinge un po' al limite, ecco. Infatti si chiama monologo sfidante, no? Viene definito. La cosa che posso dire è che quando ho letto il testo un anno fa ho proprio detto la frase mettiamolo in scena immediatamente. Dopo un anno che ci abbiamo impiegato per allestirlo, prepararlo, immergerci nel testo, eccetera, che è particolarmente aderente all'oggi, al presente, a questo momento e quindi sono molto contenta di portarlo in scena adesso, ecco. Tra l'altro il testo viene direttamente dall'Inghilterra, da Monica sì. Dolan, che appunto ha firmato il testo e poi insomma voi l'avete tradotto da Monica Capuani e lo portate anche nella sua versione italiana. Sì. Ho fatto un incontro a marzo di quest'anno con Monica Dolan, che è venuta appunto dall'Inghilterra insieme a Serena Sinigaglia, che è la regista dello spettacolo, ci tengo a dirlo perché insomma è un passo proprio a due per me, e abbiamo fatto così un brainstorming insieme all'autrice che l'aveva portato a Edimburgo anni fa e adesso è un po' è la prima nazionale, nel senso che abbiamo debuttato una settimana fa, abbiamo fatto solo due date e poi la terza data sarà proprio a Bologna. Conto pochettino qual è il tema. Certo. Più che la trama, se posso, che l'identità, soprattutto quella dell'infanzia e dell'adolescenza, ma in generale dell'identità manovrata, diciamo, in tutti noi dalla realtà virtuale. Quindi il soggetto in particolare è la storia di questa bambina e di questa madre. Però il tema dell'identità, della sessualizzazione dell'infanzia e quindi di tutte le conseguenze che questo si porta appresso, si porta con sé, che ha una grande importanza. Ovviamente il teatro non passa mai attraverso, diciamo, un messaggio da consegnare, attraverso la distinzione netta, bene e male, cioè il teatro è più un punto, l'arte in generale fa più un punto di domanda, si interroga più che fare un insegnamento, cose. È proprio per questo che mi piace anche questo mezzo. Si parla appunto di una madre, di una figlia, di corpi, quindi di donne. Ci sarai tu sul palco, la regia è di una donna che abbiamo già citato, Serena Sinigaglia, sì. La traduttrice anche, quindi insomma davvero anche tanta attualità. Sicuramente l'argomento è quello, cioè non è solo quello, ma della storia di una bambina e diciamo del femminile, dell'identità femminile manipolata e come viene portata, osservata, guardata dall'esterno e quindi questa bambina ha un desiderio indotto da un meccanismo che parte più dal sociale. Quello che riguarda un po' l'aderenza con l'adesso è sempre cercare i colpevoli in una singola persona, invece il monologo, insomma, come una spira, avvolgendo vari ragionamenti, arriva a farci scrollarci le coscienze di tutti e dire forse il meccanismo è più grande, non è solo una persona, ma c'è un sistema in cui siamo tutti dentro e che forse dovremmo guardare. Ecco, in questo senso è un po' aderente ad oggi. Io non ho mai fatto questo scelto proprio per impegno, questa è la prima volta, però ne sono molto contenta, insomma.